Se fai il bene, sappi a chi lo fai e avrai riconoscenza per la tua bontà. Se aiuti un uomo pio, avrai la ricompensa, se non da lui, almeno dall'Altissimo. Non avrà il bene chi persevera nel male e non fa mai l'elemosina. Dà all'uomo pio e non preoccuparti del peccatore. Benefica l'umile e non dare all'empio. Rifiutagli il pane, non dargli nulla, perché non ne approfitti a tuo danno. Riceveresti il doppio in male per tutto il bene che gli hai fatto. Perché anche l'Altissimo odia i peccatori e darà agli empi la sua punizione. Dà all'uomo buono e non preoccuparti del peccatore. L'amico non si rivela nella prosperità, né può celarsi il nemico nell'avversità. La prosperità rende tristi i nemici, ma l'avversità allontana anche gli amici. Non confidarti mai con il tuo nemico, perché la sua cattiveria fa ruggine come il rame. Anche se si umilia e fa tanti inchini, fai attenzione e guardati da lui. Sii con lui come chi pulisce lo specchio, sapendo che la ruggine non è profonda. Non porlo accanto a te, perché non ti scavalchi e prenda il tuo posto. Non farlo sedere alla tua destra, perché non ambisca al tuo posto. Allora, ma tardi, ricorderesti le mie parole per rimpiangere le mie ammonizioni. Chi si commuove se è morso l'incantatore di serpenti o quanti s'accostano alle bestie feroci? Così è per chi frequenta il peccatore, per ingerirsi nei suoi peccati. Può rimanere un'ora con te, se tu vacilli, lui non resiste. Il nemico ha le labbra dolci, ma col cuore vuol gettarti nella fossa. Con gli occhi pure piangerà, ma all'occasione neppure il sangue lo tratterrà. Se avrai un malanno, te lo troverai accanto, ma fingendo d'aiutarti, ti farà scivolare. Muoverà la testa, ma si fregherà le mani. Sparlerà di te, voltandoti la faccia.